E allora, quando sono le 11:15, da microfoni di Radio Onda Rossa, come già annunciato precedentemente, andiamo a parlare in maniera un pochino più articolata degli stati generali indetti dal sindaco Alemanno e dalle mobilitazioni che stanno crescendo in questi giorni da parte dei movimenti sociali in questa città. Ne abbiamo già parlato almeno di traverso, diciamo, con il compagno delle cooperative sociali che è intervenuto prima, che ha già lanciato insomma un pochino il corteo di sabato 19. In questi tre quarti d'ora che ci separano dal consueto appuntamento con Mamatron, andremo appunto a sentire altre realtà che il 19 e il 23 saranno ancora in piazza. Andremo a fare un pochino qual è il quadro della situazione. Sì, buongiorno a tutti e tutte. Anzitutto grazie ovviamente per lo spazio che ci date per parlare di questa iniziativa. L'iniziativa, ovviamente, come hai detto tu e come è stato già annunciato questa mattinata ma anche nei giorni scorsi, si tratterà di un primo corteo che sfilerà da Piazza Vittorio fino al Campidoglio sabato 19. L'appuntamento è alle 15 per l'appunto a Piazza Vittorio, e dopo un secondo appuntamento che vedrà un'altra manifestazione di dissenso il giorno 23, ovvero il giorno di chiusura degli stati generali davanti al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Per l'appunto gli stati generali si svolgeranno il 22 e il 23 febbraio prossimi, e sarà insomma la grossa vetrina, una grossa kermesse dove Alemanno presenterà i progetti di costruzione e di trasformazione di questa città. È un progetto, una serie per lo più di progetti che vanno ad inserirsi nel piano Roma Millennium, ovvero il piano di Roma 2010-2020, i 10 anni in cui Roma dovrebbe vedere per l'appunto la realizzazione di grandi opere, grandi costruzioni, ma sono tutte grandi opere e grandi costruzioni che vanno in qualche maniera a collocarsi nella speranza di farsi aggiudicare l'autorizzazione per le Olimpiadi del 2020. Ovviamente è un punto dove che trova un'accelerazione incredibile, un'accelerazione importante per questa serie di opere, a maggior ragione insomma dopo che è stato vietato il Gran Premio di Formula 1 che doveva svolgersi all'Euro. E quindi in qualche maniera pensiamo che Alemanno ci tenga, e tutta la sua giunta ci tenga in particolar modo ad affermarsi in questi due giorni e in tutti questi progetti. In questi progetti che oltretutto saranno scanditi e declinati da una serie di parole d'ordine che, se qualcuno si fa un giro sui siti del Comune di Roma, troverà per l'appunto nella parte riguardante gli stati generali di Roma, di cui c'è una di queste parole d'ordine che fa particolarmente sorridere, ovvero quella di una Roma solidale. E Alemanno e la sua giunta e la sua amministrazione dovrebbe un attimo spiegarci qual è la loro idea di solidarietà di questa città, in quanto abbiamo visto dalle cronache recenti, le cronache purtroppo molto tristi, molto amare del rogo che ha portato alla morte 4 bambini rom. Ovviamente non è un rogo che è avvenuto così in maniera accidentale, ci sono delle responsabilità, e ci sono delle responsabilità soprattutto da attribuire all'amministrazione. È un rogo che è avvenuto, come sappiamo un po' tutti e tutti, in un campo che è stato attrezzato per tutta la comunità rom che si trovava nel campo di Casilino 900, ed è un campo, come a detta della stessa comunità, è stato in qualche maniera una delusione, in quanto al seguito di una trattativa che c'era in alto fra il comune e ovviamente la comunità rom, e dove sono state tradite un po' tutte le aspettative che erano state promesse e che erano state pianificate. Si doveva trattare di alloggi migliori, alloggi dignitosi, la possibilità di accedere alle scuole per i bambini e per le bambine. Non si è trattato di questo, si è trattato ovviamente di una deportazione di massa, perché di questo si è trattato, di questo si è fatto, in alloggi che sono molto, comunque, da più fatiscenti di quanto già non lo fossero quelli di Casilino 900, molto più piccoli. Si parlava infatti di case di abitazioni all'inizio di 100 metri quadri per famiglia, in una zona oltretutto molto più accentrata, molto più vicino al centro, al cuore della città. In questo caso sono stati stipati in massa in abitazioni di 20 metri quadri, molto più lontani dall'ubicazione precedente dei classici trasferimenti, così li chiamava il Comune di Roma già all'epoca di Veltroni. Oltre il raccordo, fuori il raccordo, l'accesso alle scuole è stata un'altra delle tante menzogne di cui si era vantata all'inizio l'amministrazione Alemanno, e soprattutto si tratta comunque sia di abitazioni che sono delle vere e proprie trappole mortali per chi ci sta dentro e per chi ci abita. Ci sono state ovviamente delle testimonianze, delle documentazioni che hanno dimostrato di come comunque sia si tratta di edifici che potrebbero crollare da un momento all'altro, con un grosso rischio per l'appunto di incendi, che infatti è stato il motivo, la causa che ha portato alla morte questi quattro bambini. Questo per l'appunto vogliamo anzitutto dire qual è il senso di solidarietà di questa città e dell'amministrazione Alemanno. Il punto poi purtroppo non è solo questo, proprio per non farci mancare niente, c'è tutta una serie di problemi collegati a quello che è il futuro piano dei piani, perché si tratta più di un piano, che verranno presentati in questi due giorni, ecco, dove comunque sia non c'è l'accenno, lo straccio di una politica integrativa, non c'è uno straccio, una risposta al problema dell'emergenza abitativa, non c'è una risposta per quello che è il problema del lavoro. Il problema del lavoro lo vediamo già dalla giornata di oggi, dove ci sarà una mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle cooperative, che hanno visto un forte taglio dei finanziamenti da parte del Comune di Roma. Non è l'unico segno di dissenso che si troverà oggi e che in qualche maniera fa da apripista al corteo del 19. Ci saranno una serie anche di altri sit-in proprio oggi. Uno di quelli che mi viene in mente è quello organizzato dagli abitanti e le abitanti del quartiere di San Giovanni, dove in questi giorni stanno tagliando gli alberi secolari che un po' caratterizzano un quadrante preciso di quel quartiere. È un'operazione che stanno facendo per fare spazio alla costruzione di nuovi parcheggi sotterranei. Ovviamente c'è anche qui la mano dei soliti costruttori, dei soliti palazzinari, dei soliti veri signori di questa città, che ormai comunque sia, a dispetto di un sindaco di centrosinistra, un'amministrazione di centrodestra, sono loro che la fanno da padroni, e sono loro che comunque sia stanno causando i veri danni a questa città che ormai sta soffocando nel cemento e soffocherà ancora di più, in quanto proprio in questi progetti che verranno presentati in questi due giorni si tratta di ampliamento di metri di cubature, con premi che verranno dati ai costruttori, dove comunque in questi giorni hanno già presentato, dato accenno di quelli che saranno i nuovi palazzi che verranno costruiti nei vari quartieri di Roma, palazzi dove ovviamente non saranno a locazioni popolari, ma si tratta di palazzi da vendere ai privati, o comunque sia di housing sociale, che poi magari vediamo meglio di cosa si tratta, anche se molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici sanno qual è la trappola e l'inganno che si nasconde dietro il termine di housing sociale. C'è ad esempio quello che è il progetto della costruzione di palazzi in isole artificiali da costruire lungo la costa di Ostia. C'è ad esempio il piano F555 di Pietralata, dove anche lì si vede un ampliamento delle cubature in maniera mostruosa. E c'è soprattutto quello che è il piano che oltretutto in questi ultimi neanche giorni, diciamo in queste ultime ore, Alemanno pare che vanti che si sia decisa ad attuare, ovvero il piano del master plan di Tor Bella Monaca, che prevederebbe non solo la semplice costruzione di nuovi palazzi sacrificando il verde della zona del quartiere, ma la vera distruzione delle torri e la successiva costruzione dei palazzi. Al di là ovviamente di, come già detto, il sacrificio che dovrebbe sopportare comunque il quartiere, non solo, perché è chiaro che una volta che le torri verrebbero demolite, lo smaltimento delle macerie non si sa a discapito di chi, ma è chiaro comunque sia che c'è anche tutta una serie di problemi che emergono dalla presentazione di questo progetto, ovvero un progetto che, come abbiamo già raccontato dai microfoni di questa radio, prevede la distruzione di case, non da parte del comune ma da parte di privati, i quali nomi ancora non si sanno bene quali siano, la costruzione di alloggi provvisori per coloro che comunque nel momento, negli anni della ricostruzione dei nuovi alloggi, rimarrebbero inevitabilmente senza casa, e l'assegnazione delle case, il tutto agli stessi canoni popolari che sono quelli attualmente legati oggi, al che noi ci viene da dire, ci viene da pensare, chi è questo costruttore dalle Fogge di Babbo Natale che viene a fare questo regalo alla cittadinanza? Ovviamente c'è qualcosa che non va, ovviamente c'è comunque sia lo zampino della speculazione dei privati, quando andrà bene si parlerà ovviamente di canoni ad housing sociale e via dicendo. Tutto questo insomma è uno dei punti che vorremmo un attimo chiarire, ma anche se all'interno del quartiere abbiamo già chiarito, cioè che non ci sta bene, non vogliamo questo piano, non vogliamo il master plan a Torbella Monaca, e comunque andranno ad aggiungersi ai vari punti che ci saranno, i vari punti, i vari spezzoni che andranno a comporre il corteo del 19. Ci saranno per l'appunto infatti i movimenti del diritto all'abitare, come comunque ci saranno anche movimenti che sono più legati a questioni ambientali, come ci saranno le rappresentanze sindacali di base. Insomma, ce n'è abbastanza per chiarire che questa amministrazione a noi non ci è piaciuta. È evidente che è stata un'amministrazione che ha fatto i regali ai vecchi amici fascisti e nazisti di Alemanno. È un'amministrazione che si regge veramente sulle punte dei piedi, è bastato vedere come in un colpo solo Alemanno ha rinnovato la giunta quando si trattava della seconda settimana di gennaio, più o meno mi pare di ricordare, e comunque via dicendo. Lui tenterà ovviamente di nascondere tutto questo con i vari lustrini e le varie luci che sono soliti accompagnare queste manifestazioni, queste presentazioni. Il tutto verrà condito con la presenza non solo di esponenti politici in questo momento di primissimo piano, come il ministro Tremonti, come Frattini o la Meloni. Ci dovrebbe essere anche la presenza del Presidente del Consiglio, ma dato insomma le ultime vicende probabilmente se ne sarà chiuso dentro casa, a cui poi aggiungeranno anche Renata Polverini, Zingaretti per quello che riguarda le istituzioni, le rappresentanze delle istituzioni locali, e poi inoltre anche la presenza di alcuni imprenditori e imprenditrici che comunque già danno l'idea ben chiara di quale sarà e quale sarà il carattere di queste ricostruzioni. Ovviamente vedremo la presenza della Marcegaglia, di Pininfarina e anche di Della Valle, che ultimamente è stato acclamato un po' come il salvatore del patrimonio culturale di Roma per quello che riguarda la ricostruzione e la ristrutturazione, no, ricostruzione ovviamente solo la ristrutturazione del Colosseo, quasi a dire che insomma a Roma non avverrà quello che è successo a Pompei. Noi però ci chiediamo a discapito di chi e chi è che pagherà tutto questo. Ok, allora il quadro è abbastanza ricco, nella prossima mezz'ora proveremo a approfondirlo ancora di più in compagnia di altri ospiti, intanto ci andiamo a sentire un po' di musica. Inseguendo la frequenza che vorrei, potente ed arrogante, per te qui non c'è niente, non è questa la tua gente. Alzo a palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spicco il salto, signor boss. La mia casa è a San Lorenzo, signor boss. E da qua non me ne vado. E allo scader di un'ora, come allora, forse mi troverai, sarò lì, bam bam, spacca giù in città e levare mi dirà tutta la verità, ladro di frequenza. Da noi non avrai niente, la storia non si vende. Alzo a palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spiego. picco il salto, signor boss. Torniamo in diretta. Quello del 19, ma anche per quello che riguarda poi la mobilitazione del 23, si tratterà comunque di mobilitazioni variegate, composte da varie realtà, per l'appunto, come abbiamo già detto, anche di realtà a difesa dell'ambiente e di altri tipi di diritti che a noi comunque sia in questi ultimi tempi ci stanno venendo negati. Abbiamo con noi una compagna che per l'appunto si occupa all'interno del comitato a difesa dell'acqua pubblica. Pronto? Pronto, sì, buongiorno a tutte e tutti. Sì, guarda, io adesso ti sento un po' male, insomma. Io mi sento in ritorno, sento la mia voce, non so se c'è qualche problema. Sì, guarda, adesso insomma rimediamo immediatamente. Allora, anche voi comunque sia parteciperete al corteo del 19, insomma, facci un po' il punto della situazione. Beh, sì, ovviamente il coordinamento romano acqua pubblica sarà presente in piazza il 19 al fianco dei Movimenti Uniti contro la crisi, che hanno indetto questa mobilitazione contro gli stati generali della città organizzati dalla Giunta Alemanno. E io continuo a sentire la mia voce, spero che voi sentite me. Sì, sì, noi ti sentiamo bene. Perfetto. E allora, andando avanti, appunto, ovviamente come comitato presente in tutti i territori della città di Roma, ovviamente insomma in tutto il resto d'Italia, poi la storia del movimento dell'acqua la conoscete un po' tutti, ovviamente saremo in piazza perché da tempo abbiamo chiesto conto alla Giunta Alemanno su come intende gestire l'acqua pubblica, l'acqua dei romani, che per ora è in mano a un'ex municipalizzata, la Seato 2, una vera e propria ormai multinazionale dell'acqua. Guarda, scusami, e non solo, scusami se ti interrompo. Cioè un'impresa a capitale misto, pubblico e privato, che ha praticamente investimenti. È pronto? Scusami se ti interrompo, forse hai la radio un po' alta, abbiamo il ritorno in no, diretta. No, non sono la radio accesa. Ah, ok, allora abbiamo problemi. Non capisco. Ok, grazie, va bene, allora continua pure, noi vediamo un po' di risolvere il problema. Ok, allora io vado avanti dicendo appunto ACEA, che è l'ex municipalizzata che si occupa dell'acqua, della gestione dell'acqua nella città di Roma e non solo, ovviamente appunto da quando è diventata un'azienda a capitale misto, pubblico-privato, ha espanso i suoi interessi in tutta una serie di nella gestione di tutta una serie di beni comuni in qualche modo e di servizi, con l'intenzione di diventare una multi-utility, con l'intenzione di investire nella gestione del gas della città di Roma e del Lazio, ha investimenti in Europa e nel resto d'Italia e soprattutto è responsabile di gravissimi danni anche in Sud America e non solo, quindi ovviamente ha al suo interno ovviamente un forte spirito di privatizzazione. Per ora le quote in mano ai privati ovviamente sono inferiori al 51%, ma l'intenzione di Alemanno, quello che continua anzi a non rispondere ai comitati per l'acqua, è quella di svendere ulteriori azioni ai privati. Tra questi privati ci sono in particolare Gas de France US, che appunto è una delle maggiori multinazionali dell'acqua presenti, insomma nata in Francia e presenti nel resto del mondo, e soprattutto al noto a tutti i romani Palazzinaro Caltagirone, che quindi continua a ricevere favori da chi amministra la città di Roma, perché appunto Alemanno continua le sue trattative private cercando appunto di promuovere la svendita di ulteriori azioni di ACEA SPA. Questo che cosa comporterà? Comporterà ovviamente una mancanza di diritti sempre più grandi per chi lavora all'interno di ACEA, uno smembramento probabilmente di quella che è la gestione di ACEA, ma soprattutto porterà delle conseguenze per i cittadini, ovvero un aumento delle bollette e una perdita di qualità nel servizio. Un po' ce ne siamo già accorti, i residenti dei Castelli Romani, tutta la vicenda legata all'arsenico, come dire, poi ci si sveglia un giorno e ci si rende conto che nell'acqua c'è l'arsenico, ma la responsabilità è di una gestione sbagliata delle tubature. quindi e del servizio idrico, che è anche per quanto riguarda i Castelli Romano in mano da CEA. Quindi già da tempo ci siamo mobilitati, appunto perché la Giunta Alemanno prevedesse di interrompere i processi di privatizzazione previsti dal decreto Ronchi, che appunto chiede, come tutti sanno, di privatizzare i beni, i servizi con rilevanza economica, quindi servizi pubblici come l'acqua, come i trasporti, la gestione dei rifiuti e quant'altro. E invece la Giunta Alemanno ha rifiutato questa richiesta di moratoria, ha rifiutato di interrompere i processi di privatizzazione in attesa, come chiedevamo noi, che i cittadini si potessero esprimere con i referendum che si terranno la prossima primavera. Sì, guarda, quindi, continua. Quindi, ovviamente, appunto, noi siamo all'interno, presissimi e entusiasti della battaglia, quella per l'acqua, per la ripubblicizzazione dell'acqua e per il fatto che appunto entro la primavera si andrà a votare per questi due referendum, i due sì per l'acqua bene comune, e per questo un comitato come il nostro, che lotta e difende l'acqua bene comune, non può che non scendere in piazza per difendere Roma, il nostro bene comune, ovviamente, essendo un comitato così radicato in questa città, un comitato che appunto lavora tutti i giorni sui territori per costruire un'altra città, che non è sicuramente quella dei poteri forti appoggiati da Alemanno. Sì, ovviamente non fa una piega quello che hai detto fino adesso, prima ti stavo interrompendo proprio perché avevi citato la situazione dei Castelli Romani, che è una situazione oggi come oggi dal punto di vista ambientale molto provata, e non solo dal punto di vista dell'acqua, perché comunque sia pensiamo ai disagi che vivono gli abitanti e le abitanti delle frazioni di Ciampino e di Santa Maria delle Mole per colpa del traffico aereo dell'aeroporto di Ciampino, ma anche quelli che sono comunque sia i prossimi bui presagi che dovrebbero riguardare la zona di Albano, se e quando verrà costruito l'inceneritore. A questo proposito, insomma, ne volevo approfittare che in Oincia ad Albano, comunque da sempre sabato, faranno una serie di iniziative proprio per sensibilizzare la popolazione su questo punto. Sì, ovviamente noi siamo in stretta relazione e connessione anche con i territori che circondano la città di Roma, visto che ormai praticamente non esiste più una divisione territoriale, in qualche modo c'è una continuità anche di cementificazione, ma anche di, ovviamente, di socialità e di contributo reciproco sull'attivazione sui territori, che insomma ogni lotta contamina l'altra, ogni lotta sostiene l'altra, e quindi anche in questa direzione si è mosso la costruzione del corteo di sabato 19, di tutte le mobilitazioni contro gli stati generali, proprio perché appunto si va in una direzione che è insieme sia chi difende i beni comuni, i territori più come dire, insomma, correttamente intesi, più riconosciuti insomma da tutti, ma anche chi lotta per un altro bene comune, che forse è la difesa della vita e di una vita degna all'interno di una città. Quindi chi difende i soggetti dalla precarietà, dai disagi legati alla sanità, dalla mancanza di casa e di diritto all'abitare dignitoso. Quindi insomma ovviamente tenere insieme tante realtà non è facile, è stato uno sforzo importantissimo e che speriamo che venga fuori evidente a tutti, ovviamente nelle mobilitazioni del 19 e del 23 contro questi stati generali organizzati di Alemanno, quindi contro una vetrina che vorrebbe dipingere questa città come in realtà non è, come chi la vive sa perfettamente che non è. Esattamente, senti, così in chiusura e andando magari un po' fuori il discorso degli stati generali, voi come comitato dell'acqua pubblica da qui al referendum ad aprile, quali sono le prossime iniziative che avete in calendario? Allora, innanzitutto ieri ci siamo costituiti nel comitato romano due sì per l'acqua bene comune, perché ovviamente da ora in poi sarà fondamentale un po' per tutti, visto che il referendum nasce dal basso, che appunto tutti quanti ci facciamo portatori di questo messaggio, due sì per l'acqua bene pubblica. e quindi ovviamente non potevamo che non fare questo passaggio nella direzione del referendum. E quindi il referendum, che ancora purtroppo non è stato fissato, ma insomma, visto i nostri nemici al governo, probabilmente sarà fissato il più tardi possibile, quindi sì, insomma, la strada sarà tutta in salita. Continueremo con varie mobilitazioni. Innanzitutto si sta facendo la richiesta di accorpamento con le amministrative verso il referendum, e quindi ci sono raccolte firme online sul sito www.acquabenecomune.org. Dopodiché ci sarà la grande manifestazione del 26 marzo, la manifestazione nazionale per l'acqua pubblica, appunto, che ha un anno dalla scorsa manifestazione appunto sempre per l'acqua, che vide 200.000 persone in piazza. Ovviamente quest'anno ci aspettiamo che siano almeno il doppio, visto che abbiamo raccolto 1.400.000 firme e ci avviciniamo sempre di più al voto referendario. Voto referendario che insomma sarà ovviamente fondamentale, perché segnerà un passaggio fondamentale. Se passa la ripubblicizzazione dell'acqua, non si torna indietro e si rompe per la prima volta i processi di liberalizzazione e di neoliberismo che in Italia almeno da 15 anni vanno avanti, vengono portati avanti dalla politica di tutti i colori. Ho capito. Detto questo, insomma, le iniziative saranno tante, verranno comunicate di volta in volta, ci saranno tante iniziative, cene a sostegno per l'autofinanziamento, feste, iniziative in tutti i territori. Per esempio, io vi cito solamente uno: ci sarà il carnevale antirazzista dell'undicesimo municipio, che quest'anno appunto sarà incentrato sul tema dell'acqua e vedrà un corteo appunto che si snoderà tra Tormaranzi e Garbatella proprio sabato 5 marzo, sabato grasso. Quindi questa è una delle tante iniziative che però sostengono il percorso verso il referendum. Va benissimo, guarda, noi adesso ti salutiamo, ovviamente ci possiamo sempre risentire dai microfoni di Onda Rossa. Bene, grazie a voi per la possibilità, scusate se l'ho fatta un po' lunga, ma le questioni sono tante. Ok, ciao, grazie. Ciao, grazie. Non so cosa è successo l'altra sera, ma ho visto gente preoccupata alla TV. Quando si sono accorti che alla conta quei nomi non rispondevano più. Corri, corri, corri, corri fuori di qui. Corri, corri, corri, corri avanti di là. Corri, corri, corri, corri, corri, corri, che non ci beccano più. Sca! In un telegiornale con le foto che ti sono pericolose, ora sono in mezzo a voi. Fuori dallo speciale, appoggiate al banco bar con la birra e con la musica balla. Corri, corri, corri fuori di qui. Corri, corri, corri, corri avanti di là. Corri, corri, corri, corri, corri, corri, che non ci beccano più. Shot! Inizio a rilanciare la paura della notte, intimida le guardie che ti riempono di botte. Il pensiero non solo una casa, un momento per saltare il muro e correre lontano. Allora andiamo avanti sempre con questa diretta accentrata sul corteo di sabato 19 contro gli stati generali presentati a Roma il 22 e il 23 febbraio presso il Palazzo dei Congressi all'Euro, e abbiamo con noi in linea un compagno che si occupa della questione rifiuti. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao. Allora, senti, dacci subito il tuo contributo, anzi il vostro contributo all'interno del corteo del prossimo sabato 19. Chiaramente credo che gli ascoltatori sanno che la motivazione è proprio per far sfilare la città vera, cioè la città che vive e che lotta tutti i giorni, insomma, in particolar modo quella che viene dalla periferia, che è la vera città. di Roma, per poi andare alla, agli stati generali del 22 e il 23 che sono stati indetti da Alemanno al Palazzo dei Congressi dell'Euro, per fare un assedio popolare come l'abbiamo definito noi, chiaramente in tutte quelle forme che poi tutti i movimenti decideranno, insomma, quel giorno di fare. In particolar modo verrà fatto il 23, proprio perché ci sarà il massimo del Gotha, insomma, ci sarà la conclusione degli stati generali da parte di Alemanno e perfino di Berlusconi. Sì, guarda, da questo punto di vista l'abbiamo accennato già prima, ci saranno i compagni e le compagne del No Inch di Albano che sabato proprio nei castelli faranno una serie di azioni informative e dimostrative su quello che è il problema dell'inceneritore, su quello che è il problema dello smaltimento dei rifiuti dei castelli, che comunque è un problema che poi va a toccare la città di Roma in maniera diretta. Certo, perché chiaramente ormai c'è stato quel rimbalzo, insomma, tra comune, provincia e regione sulle nuove discariche, chiaramente il superamento della quella mega discarica più grande d'Europa che è Malagrotta, insomma, quindi è ovvio che si sta parlando di questo e purtroppo la situazione è veramente drammatica, perché scelte alternative non ci sono, chiaramente quelle che noi pensiamo sempre che sia il riciclo dei rifiuti, insomma, e altre soluzioni sostenibili e comunque ecocompatibili. Quindi è chiaro che per noi è molto importante, insomma, come abbiamo fatto già il 25 dell'anno scorso, che abbiamo assediato la Regione Lazio, fare altrettanto con gli stati generali di Roma, insomma. Va benissimo, guarda, in chiusura ti pongo la stessa domanda che ho fatto alla compagna prima, cioè usciamo un attimo dal cerchio degli stati generali e di queste prossime mobilitazioni e ti chiedo quali sono i vostri prossimi appuntamenti in calendario dal vostro punto di vista. Noi in pratica facciamo parte di quella rete, comunque di quei movimenti che si sono uniti nell'area vasta sostanzialmente della provincia di Roma, quindi del movimento contro la nocività e le devastazioni. Noi sicuramente adesso a marzo avremo un'iniziativa molto grossa a Fiumicino per quanto riguarda sia le devastazioni che le nocività, perché è interessato da un intervento pesantissimo sul raddoppio dell'aeroporto, i due porti, insomma, e altre opere veramente devastanti. Quindi questo sarà il primo, oltre ovviamente a mantenere alta l'iniziativa sul settimo invaso, insomma, di Albano per quanto riguarda la discarica di Ciarroni. Va benissimo, guarda, ti ringraziamo per il tuo intervento e ovviamente ci troviamo sabato al corteo. Ok, ciao. Ciao, grazie. Qualcosa non va, lui tanto sopravviverà. E se qualcosa non va, e se qualcosa non va, lui tanto sopravviverà. Sono passati pochi anni e i suoi passi sono stanchi, perché i sogni che c'è addosso sono sempre più pesanti. Sacco di fuggire abituato a certe scene, per nutrire la speranza devo odiare le catene. Fuggendo questa volta rimane un po' più in là, e intanto la coscienza che mai smette di gridar. Tu da che parte stai? Tu da che parte stai? Tu da che parte stai? Fuggi e mai lo capirai. Se qualcosa non va, e se qualcosa non va, lui tanto sopravviverà. E se qualcosa non va, e se qualcosa non va, lui tanto sopravviverà. E se qualcosa non va, e se qualcosa non va, lui tanto sopravviverà. E allora, prima di andare avanti con il prossimo contributo che abbiamo programmato per questa diretta, abbiamo un collegamento al telefono. Pronto, ci senti? Pronto, sì, vi sento e vorrei... sono un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Ok. Va bene, allora vi aggiorno intanto col fatto che l'inceneritore è stato per ora bloccato perché abbiamo vinto ricorso al TAR. Esatto, è una cosa che ci siamo scordati di dire, però sì, effettivamente... è una cosa assolutamente trascurabile. Seconda comunicazione, il coordinamento contro l'incendio di Albano non aderisce a niente, a nessun assedio, a nessuna manifestazione contro gli stati generali, eccetera eccetera. Ciascuno è libero di fare quello che meglio crede, però è almeno sarebbe utile e corretto che ciascuno parlasse per sé. Sì, infatti ne abbiamo parlato come la vostra iniziativa di sabato, ma non come la vostra parte. Non c'è nessuna iniziativa qui. Noi facciamo un'assemblea domani nel comune di Albano, a Pavone, la terza, sulla questione dell'arsenico e sulla questione delle tariffe dell'acqua. Specifico che non ce ne frega assolutamente nulla del referendum, e faremo un presidio sotto la CEA il 25 prossimo, che è sempre un venerdì e non è un sabato, dalle ore 11 alle ore 15. Abbiamo come obiettivo quello di imporre, se riusciremo, una nuova fatturazione, una revisione dei criteri di fatturazione per tutto l'anno trascorso da parte di ACEA, perché nel comune della regione Lazio, in circa 100 comuni, distribuisce acqua che non sta dentro i limiti, e questo è quanto è dovuto. È sempre questo invito, ciascuno parli per sé. Grazie. Prego, grazie a te per la precisazione. E allora proseguiamo la diretta. Ancora, come abbiamo detto, avevamo un altro intervento programmato per questo spazio radiofonico. A proposito del corteo di sabato 19, abbiamo qui con noi una compagna del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Allora, come avevamo già detto, insomma, sarà presente anche la partecipazione di tutti i movimenti di lotta e del diritto all'abitare. Ovviamente ci sarà anche il vostro. Sì. Questo è un corteo che nasce da un lungo percorso che negli anni si è costruito e che ha trasformato i movimenti di lotta per il diritto alla casa in movimenti di lotta per il diritto all'abitare, che insomma pretendono di mettere bocca sulle trasformazioni urbane, sul dove, sul come e sul chi costruisce le case e quali case, nel senso che poi ormai si parla solo di social housing, di acquisto di case dai privati e quant'altro per l'emergenza abitativa, mentre si sono in qualche modo accantonati i piani di edilizia residenziale pubblica e quant'altro. Da 2 anni abbiamo ottenuto un finanziamento di 100 milioni di euro l'anno da parte della regione, che ancora sono bloccati per l'incapacità di questa amministrazione comunale di definire appunto le aree della nuova edilizia residenziale pubblica. Sulle aree c'è una lotta senza limiti alla nuova edificazione di tipo privato, tutta l'operazione di Torbella Monaca di cui avete parlato, ma insomma di ieri anche la nuova delibera di giunta, è fondamentalmente un mega regalo ai costruttori, è una nuova cementificazione di massa. E tutto questo, tutta questa corsa al nuovo cemento che Alemanno in qualche modo in campagna elettorale aveva anche criticato, ponendosi appunto all'opposizione di un piano regolatore che regalava già 70 milioni di metri cubi di cemento alla nuova edilizia residenziale. E oggi invece ovviamente si pone nettamente su quella scia e continua appunto la conquista dell'agro romano e di nuove praterie desolate in cui costruire periferie, ghetto, sia per l'emergenza abitativa, quindi per, insomma, per quelle poche manciate di case popolari, ma anche per chi quella casa se la deve comprare, insomma. E dovrà andare a vivere in una città, in una megalopoli fondamentalmente dai confini vastissimi in cui è impossibile spostarsi con i mezzi pubblici ma solo con le macchine, congestionata quindi dal traffico, priva dei più elementari servizi. Insomma, in questa città non esiste proprio parlare di biblioteche, non esiste parlare di ludoteche, non esiste tutto quello che ha un approccio, insomma, a quartieri che non siano dormitorio, semplici dormitori. Noi appunto come movimenti il diritto all'abitare, stiamo cercando di portare avanti una battaglia contro il consumo di nuovo suolo e per il riuso del patrimonio, soprattutto pubblico. A questo proposito, proprio domani c'è un'assemblea che promuovete all'occupazione del porto fluviale, che è proprio una caserma, e tanto di caserme si è parlato in queste settimane. Sì, esiste questo patrimonio, per esempio, di 15 caserme che un accordo tra governo e comune di Roma vuole vendere al miglior offerente per ricavare, si parla di cifre di 3 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni dovrebbero andare alle casse comunali attraverso processi appunto di valorizzazione, che significa vendere al migliore offerente e concedere nel pacchetto anche i cambi di destinazione d'uso che producono insomma la migliore il migliore profitto, quindi alberghi di lusso, abitazioni private di lusso in zone che, ripeto, sono totalmente pubbliche e che stanno nei territori della città consolidata, quindi proprio in quei territori che invece avrebbero bisogno, dal momento che esistono già servizi, potrebbero insomma accogliere sia le famiglie in emergenza abitativa nelle più ampie fattispecie, nel senso che parliamo appunto dell'emergenza abitativa dei migranti, dei richiedenti asilo, tutta la questione Rom, in cui anche il sindaco Alemanno stesso poi blatera di requisizioni delle caserme quando lui in prima persona le sta mettendo in vendita. Nasce quindi in questa città dall'attivazione locale tutta una serie di comitati di quartiere e quant'altro, di movimenti, un comitato per l'uso pubblico delle caserme, che in ogni territorio, da Forte Boccea, dove ci sono associazioni pacifiste che vorrebbero ricordarne la memoria perché lì avvenivano le fucilazioni dei partigiani, alla caserma Via di Pietralata che appunto potrebbe diventare un polo di servizi insomma molto importante per quel quartiere, fino appunto a quella di Porto Fluviale, dove noi proponiamo un progetto di autorecupero che possa appunto accogliere le famiglie che già vi abitano, ma anche spazi come asili nido, biblioteche, magari interculturali, rispettando anche la natura di un quartiere che è il secondo a Roma per presenza di immigrati. E tutto questo si potrebbe realizzare con pochi soldi, solo che sono i soldi appunto del pubblico, di tutti noi, e non sono i soldi che fanno girare gli investimenti dei grandi costruttori ai quali tutti gli interessi di questa città sono piegati. Allora noi con questo corteo, con l'assemblea di venerdì, con il corteo di sabato e anche, mi permetto di ricordare, l'assedio del 23, quando Berlusconi e forse anche Tremonti parteciperanno a questa vetrina imbellettata del sindaco Alemanno, e noi vogliamo portare anche in quella sede quella rabbia precaria che si è espressa nella giornata per esempio del 14 dicembre quando il popolo nelle sue forme più varie ha sfiduciato i governanti e insomma a partire da questa dal livello diciamo metropolitano e cittadino noi vogliamo portare insomma la nostra mozione di sfiducia totale al governo di Alemanno e ovviamente anche all'opposizione capitolina, che su questo è assolutamente inadeguata e questo l'abbiamo detto insomma tante volte. Quindi la manifestazione di sabato appunto dalle 15 alla Piazza Vittorio e anche l'assedio che si svolgerà appunto sotto al Palazzo dei Congressi dell'Eur, la Groviera, il Colosseo Quadrato, come che dir si voglia, e che si svolgerà fondamentalmente con una, speriamo, grande assemblea pubblica, speriamo appunto con un attacco sonoro e speriamo di riuscire insomma a rovinare quella vetrina. Sì, tu poi tanto così per concludere, hai fatto giustamente, hai aperto un discorso giustamente su la riqualificazione e ristrutturazione di stabili di varia natura abbandonati, e qualche giorno fa per l'appunto a Via Ragusa c'è stata l'occupazione di uno stabile dell'ADAC, dove ci sono state diverse proposte di come riutilizzarlo, anche rispettando diciamo la sua natura stessa di rimessa dell'ADAC, perché fra le varie proposte per l'appunto mi pare di ricordare che era venuta fuori quella di riutilizzarlo per i mezzi elettrici del trasporto pubblico, e che poteva comunque sia un po' tutto lo stabile funzionare anche tramite l'impianto di impianti fotovoltaici. Sì, esatto. Quello che mi preme sottolineare è che sta nascendo un'ottima sinergia tra i vari soggetti in movimento in questa fase di crisi e di opposizione sociale, per cui un'occupazione appunto dei movimenti di lotta per l'abitare, che segnala in un percorso di censimento dal basso che noi stiamo facendo da tanto tempo, cioè quei posti che non riusciamo materialmente a occupare per andarci a vivere perché le condizioni non lo consentono, comunque li segnaliamo e comunque licenziamo dal basso appunto. E venerdì avremo anche un incontro col sindaco Alemanno in cui vogliamo chiedere un censimento largo del patrimonio inutilizzato e un piano di riutilizzo di quel patrimonio, perché appunto crediamo che sia un po' la chiave di volta nelle trasformazioni urbane, che pur sono necessarie ovviamente in una città che si evolve, ma che non deve assolutamente essere escludente e in qualche modo centrifuga, ma invece deve tenere dentro tutte quelle situazioni che appunto per le quali la città sta diventando sempre più escludente e sempre più inaccessibile. E sul deposito ATAC, nella giornata appunto di lunedì, quando c'è stata questa iniziativa, abbiamo avuto modo di toccare con mano appunto come queste sinergie poi effettivamente si danno quando ci sono delle attivazioni sui territori, perché immediatamente dopo l'occupazione simbolica moltissimi lavoratori di ATAC, tra l'altro quella è una zona che seppure con una grande presenza di organizzazioni fasciste che colorano insomma di nero i muri di quel quartiere, in realtà però molte case e molta gente che ci abita viene proprio da famiglie di ferrotranvieri, di autisti e quant'altro, e c'è stata una reazione molto positiva, insomma molta gente si è avvicinata, molta gente ha detto sono anni che vediamo questo palazzo vuoto, di notte le luci sono tutte accese, rappresenta uno spreco e veramente uno schiaffo in faccia a chi appunto vorrebbe invece riprendere tutto il discorso della mobilità sostenibile, e ricordiamoci appunto che quei processi che noi come Movimento di Lotta per la Casa segnaliamo sulla vendita, sulla svendita, la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sono gli stessi processi, sono guidati insomma dalle stesse logiche che poi procedono alla svendita di rami d'azienda, alla privatizzazione dei servizi pubblici e quindi alla precarizzazione dei lavoratori, con tutti insomma gli annessi e connessi che conosciamo bene. Va bene, noi ovviamente ti ringraziamo e direi che andiamo anche a concludere questa diretta ripetendo un po' i due appuntamenti importanti relativi a questa kermesse che si terrà il 22 e il 23 febbraio al Palazzo dei Congressi dell'Euro. Il primo, la manifestazione di sabato 19, l'appuntamento alle ore 15 a Piazza Vittorio, corteo fino al Campidoglio. E poi ci sarà il secondo appuntamento davanti al Palazzo dei Congressi dell'Euro il giorno 23, ovvero il giorno di conclusione di questi stati generali dell'amministrazione Alemanno. E torniamo subito in diretta al volo, prima di passare la linea a Mamma Trona, siamo in collegamento con Valerio, pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Stamattina abbiamo parlato, ridato tutti quanti gli appuntamenti che si muovono nel countdown verso il 22 febbraio, l'anniversario dell'assassinio di Valerio Verbano. Valerio fa il precario come camera, come freelance, come fotografo, e ha deciso insomma, vivendo appunto nel quartiere dove è nato e cresciuto anche Valerio Verbano, di cui porti lo stesso nome, forse non a caso come tanti pure come tanti che vivono in quel quartiere, e una mostra di foto per raccontare cosa e soprattutto dove si potrà vedere e da quando. Allora, intanto per raccontare cosa, partire da qui, perché io ho voluto raccontare la quotidianità di una palestra intitolata proprio a Valerio, nel cuore del nostro quartiere, che è il Tufello, e che porta avanti poi, a mio avviso, uno slogan, che è quello di un'idea non muore mai, quest'idea la si può, diciamo, trasmettere quotidianamente anche attraverso lo sport. E quindi è anche un omaggio, diciamo un ringraziamento da giovane, da abitante di quel quartiere, a chi poi